All'inizio c'era una lunga galleria, la cui volta di marmo bianco era sostenuta da colonne corinzie di marmo rosa venato di blu, separate l'una dall'altra da un vaso di malachite in cui l'aloe reggeva i suoi grandi bordi spinosi, e poi immensi cortili che si susseguivano in una profondità davvero pittoresca e che erano riempiti, come estesi tappeti, da ricche aiuole variegate con i fiori più belli. La rugiada con cui tutte queste piante erano state appena inondate sembrava ricoprirle ancora di una garza d'argento. Al centro degli ornamenti simmetrici che questi parterre disegnavano sul terreno, fontane che zampillavano in vasche di diaspro, sollevavano i loro getti trasparenti nell'aria azzurra del mattino. E il primo raggio del sole che cominciava a passare sopra la cima dell'edificio, cadendo su questa pioggia fine e rimbalzante, incoronava ogni getto con un'aquila di diamanti, superbi fagiani cinesi che quasi non si disturbavano sotto i piedi di Stenio, camminavano tra i fiori con i loro pennacchi di filagrana e i fianchi di velluto. Il pavone stendeva il suo abito di gemme sui prati e l'anatra moschiata con il suo petto di smeraldo inseguiva nelle vasche le mosche dorate che tracciavano cerchi sfuggenti sulla superficie dell'acqua. Al grido beffardo o lamentoso di questi uccelli prigionieri, al loro incedere malinconico e fiero, si mescolavano le mille voci gioiose e rumorose, le mille curiose familiarità degli uccelli liberi del cielo. I tarin, maliziosi e fiduciosi, si posarono sulle fronti immobili delle statue. Il passero insolente e timoroso rubava il cibo agli uccelli domestici e volava via spaventato al minimo chiocciare delle nidiate. Il cardellino attaccava le egrette dei fiori che il vento contendeva. Anche gli insetti si erano svegliati e avevano iniziato a frusciare sotto l'erba, riscaldata e fumante alle prime luci del giorno. Le più belle farfalle della valle arrivavano a frotte per bere il succo di queste bellissime piante esotiche, il cui sapore le inebriava a tal punto da lasciarsi prendere per mano. Tutte le voci nell'aria, tutti i profumi del mattino salivano al cielo come puro incenso, come un cantico ingenuo per ringraziare Dio dei benefici della creazione e del lavoro dell'uomo. Ma tra tutte queste esistenze animali e vegetali, tra queste opere d'arte, splendori di ricchezza, mancava solo l'uomo. Il rastrello aveva da poco passato la sabbia di tutti i sentieri, come se volesse cancellare il ricordo dei passi umani. Stenio provò una sorta di timore superstizioso mentre faceva il suo. Gli sembrava che stesse per distruggere l'armonia di questa scena magica e far crollare su di sé le mura incantate del suo sogno. Perché nella confusione delle sue idee poetiche e delle sue aberrazioni malate, non voleva credere alla realtà delle cose che vedeva. Quando intravide le profondità deserte della valle dietro i colonnati trasparenti del chiostro, immaginò subito che nel bosco si fosse addormentato sotto l'albero preferito di una fata e che al suo risveglio la civettuola, regina delle fate, lo avesse circondato con le impalpabili meraviglie del suo palazzo per farlo innamorare o impazzire. Mentre si abbandonava a questa fantasia, inebriato dagli odori dolci del gelsomino e della datura, contento di essere solo in questi splendidi ambienti e quasi credendosi un re o un dio, si avvicinò ad una finestra alta e lunga, i cui vetri colorati, scintillando alla luce del sole, ricordavano la tenda di seta sfumata di un harem. Si sedette sul bordo di uno stagno pieno di pesci e si divertì a seguire, attraverso l'acqua limpida, le trote che indossavano una morbida armatura d'argento tempestata di rubini e le tinche rivestite di oro pallido sfumato di verde. Ammirò la morbidezza dei loro giochi, la brillantezza dei loro occhi metallici, l'inconcepibile agilità del loro volo spaventoso mentre disegnava la sua ombra mobile sull'acqua. Improvvisamente, canti come quelli che i santi devono intonare ai piedi del trono di Geova uscirono dalle profondità del misterioso edificio e, mescolandosi alle vibrazioni dell'organo e alla grande voce del buccinatore, riempirono l'intero recinto del monastero. Tutti sembravano tacere per ascoltare e Stenio, colpito dall'ammirazione, si inginocchiò istintivamente come nel giorno della sua infanzia. Le voci degli uomini, profonde e piene, si levavano a Dio come una preghiera fervente e speranzosa, e le voci dei bambini, penetranti e argentee, rispondevano come le lontane promesse del cielo espresse dal puro organo degli angeli. I monaci dissero: Angelo del Signore, stendi le tue ali protettive su di noi, proteggici con la tua vigile bontà e la tua consolante misericordia. Dio ti ha reso indulgente e mite tra tutte le virtù, tra tutte le potenze del cielo, perché ti ha destinato ad aiutare e consolare gli uomini, a raccogliere in un vaso incontaminato le lacrime versate ai piedi di Cristo e a presentarle in espiazione davanti alla tua eterna giustizia. I bambini rispondevano dal suono della navata: Sperate nel Signore, o voi che vi affannate nelle lacrime, perché l'angelo custode stende le sue grandi ali d'oro tra la debolezza dell'uomo e l'ira di Dio. Poi i monaci continuarono con altre lodi e i bambini risposero di nuovo, e una voce maschile di un giovane fratello recitò un altro versetto. E invocate l'angelo custode, rispondevano le voci infantili, perché è il più potente degli angeli del Signore. Invochiamo l'angelo custode, riprese una voce più tremante delle altre, che Stenio pensò di non aver sentito per la prima volta. Chiediamogli di cancellare dal nostro cuore il ricordo delle cose passate. Chiediamogli di stendere un velo di lutto, un velo impenetrabile sulle seduzioni di un mondo falso, sugli allettamenti di idoli bugiardi. Preghiamolo di accendere in noi il fuoco dei desideri santi e di spegnere l'ardore dei desideri peccaminosi, che dia alla fronte delle nostre Madonne un aspetto più severo, al marmo dei loro piedi una freddezza più sensibile, affinché quando guardiamo questi tratti augusti, quando baciamo questi piedi immacolati, non abbiamo pensieri impuri o illusioni fatali. Preghiamolo anche, quando appare nei nostri sogni, di non assumere i tratti delicati, lo sguardo tenero, la veste fluente e i lunghi capelli di una donna. Il monaco interruppe bruscamente. Un lungo silenzio, prodotto forse dallo stupore e dalla confusione, seguì nel coro dopo questa strofa incompiuta. Infine le voci dei bambini conclusero l'inno ripetendo: Invochiamo l'angelo custode, ludiamo Dio. Nel frattempo Stenio vide un monaco ancora giovane uscire da solo dalla cappella e sprofondare con agitazione sotto le arcate del chiostro. Gli sembrò di riconoscere nella camminata di quell'uomo, come nel suono della sua voce che lo aveva colpito, il prete irlandese che aveva visto impazzire Magnus. 4. Le tombe. Quando il gruppo passò lentamente davanti a Stenio e l'ultima veste del monaco scomparve dietro gli archi del cortile, Trenmore raggiunse l'amico e, sedendosi accanto a lui, cercò di leggere nei suoi tratti l'impressione che riceveva. Ma il momento di esaltazione che aveva ispirato a Stenio una fantasia romantica era passato ed era ricaduto nel suo solito stato di apatia e freddezza. Poi ricordò gli incidenti che lo avevano portato in questo luogo e disse con indifferenza: Quindi ieri sera mi dicevi che questi religiosi erano dell'ordine dei Camaldolesi? Sì, rispose Trenmore, è una delle comunità più ricche, pacifiche e meno severe della Chiesa romana. La bellezza della loro dimora, l'estensione della terra che possiedono e la libertà di cui godono permettono loro di dedicarsi alle scienze e alle arti. Tra loro ci sono molti eccellenti musicisti e dotti astronomi, alcuni sono poeti e pittori, altri sono così dediti alla chimica e alla fisica che al volgo sembrano portare avanti le antiche tradizioni dei monaci, alchimisti e astrologi. E infine, se la poesia nobile e sacra, se la fede illuminata e potente, se lo studio paziente e coscienzioso si sono rifugiati in qualche luogo della terra, questo è questo convento. Non sei colpito dalla magnificenza dell'esterno di questa dimora, dall'austera sapienza e dall'ingenuità patriarcale che hanno governato la coltivazione di questi giardini e la composizione di queste voliere. Non vedi qui la realizzazione di tutti i desideri legittimi, la soddisfazione di tutti i bisogni onesti, di tutte le nobili ambizioni, di tutte le fantasie innocenti? Mi sembra che un'anima inquieta debba calmarsi all'avvicinarsi di questo santuario, che un cervello stanco debba riposare e ringiovanire in seno a queste abitudini pacifiche e sagge. Cosa ne pensi, Stenio? Penso, rispose Stenio, che l'insaziabile desiderio dell'anima sopravviva a tutte queste soddisfazioni. Penso che l'instancabile inquietudine dell'uomo renda vani tutti i suoi sforzi per accontentarsi del possibile. Trenor, vedendo che non era ancora giunto il momento di dominare e addormentare questa ragione amara e risentita, lo portò a pranzo nella stanza del priore. Poi gli propose di andare con lui a vedere il cimitero. Era situato sul pendio della montagna, da un lato raggiungeva il convento attraverso una galleria di colonne tortili. L'altro lato era delimitato da un burrone spoglio e sabbioso, in fondo al quale un piccolo lago a forma di imbuto giaceva dormiente in un tetro riposo. Non c'era modo di scendere fino al suo bordo, a causa della mobilità delle sabbie inclinate che lo circondavano e della totale assenza di punti di appoggio. Nessuna roccia aveva trovato il modo di fermarsi su questo rapido pendio. Nessun albero era riuscito ad affondare le proprie radici in questo terreno friabile, in attesa che le valanghe che lo avevano scavato lo riempissero. Questo precipizio nutriva tra le sue onde immobili una ricca vegetazione. Giganteschi loti, polipi d'acqua dolce, lunghi ventibraccia, portavano le loro ampie foglie e i loro variegati fiori sulla superficie di quest'acqua che il remo del pescatore non attraversava mai. Sui loro steli intrecciati, al riparo delle loro culle moltiplicate, le vipere, dalla pelle color smeraldo, e le salamandre dagli occhi gialli e dolci, dormivano, spalancando gli occhi al sole, sicure di non essere tormentate dalle reti e dalle trappole dell'uomo. La superficie del lago era così densa e verde che dall'alto sembrava un prato. Foreste di canne riflettevano i loro esili steli e i loro vellutati pennacchi che il vento piegava come una messe di pianura. Stenio, incantato dall'aspetto selvaggio di questa gola, volle scendere e mettere piede in questa rete insidiosa di fogliame. «Fermati, figlio mio!» disse un monaco che li accompagnava, con la cuffia calata sul viso. Questo lago, coperto di fiori, è l'immagine dei piaceri del mondo, è circondato da seduzioni, ma nasconde abissi senza fondo. E tu cosa ne sai, padre? Disse Stenio sorridendo. Hai sondato questo abisso? Hai camminato sulle onde tempestose delle passioni? Quando Pietro cercò di seguire Gesù sulle onde del Genezaret, rispose il camaldolese, sentì dopo pochi passi che la sua fede era venuta meno. Che si era avventurato troppo nel voler, come il figlio dell'uomo, camminare sulla tempesta. Gridò: Signore, stiamo perendo! E il Signore lo attirò a sé e lo salvò. Pietro era un cattivo amico e un discepolo vile, disse Stenio. Non è forse lui che ha rinnegato il suo maestro per paura di condividere la sua sorte? Coloro che temono il pericolo e si ritirano da esso sono come Pietro, non sono né uomini né cristiani. Il camaldolese abbassò la testa e non rispose. Trenor, esortando Stenio a girarsi, gli fece ammirare l'aspetto del cimitero, tassi mostruosi, la cui crescita nessuna mano umana aveva mai tentato di dirigere, coprivano le tombe con una cortina così scura che alla luce del giorno il marmo delle figure distese sulle bare si distingueva a malapena dal cupo pallore dei monaci inginocchiati tra le tombe. Un terribile silenzio incombeva su questo manicomio di morti. Il vento non riusciva a penetrare il misterioso spessore degli alberi e il sole non emetteva un solo raggio. La luce e la vita sembravano essersi fermate alle porte di questo caos e se si cercava di attraversarlo era per tornare al chiostro o per fermarsi sul bordo di questa gola ancora più silenziosa e desolata. Mi piace ogni cosa al suo posto. Il lusso e la morbidezza delle cortigiane, l'austerità e la mortificazione dei monaci. Mi piace ogni cosa al suo posto. Ma dimmi, padre, perché ti ostini a nascondermi il tuo volto? Conosco bene il suono della tua voce, ci siamo già incontrati in tempi migliori. Meglio, disse Magnus, lasciando cadere lentamente la cuffietta e appoggiando la fronte già calva sulla mano inaridita, in un atteggiamento di malinconico dubbio. Sì, meglio, meglio per te e per me, disse Stenio, perché in quel momento le rose della giovinezza sbocciavano sul mio viso. E anche se l'ultima volta che ti ho incontrato sulla montagna avevi l'aria smarrita e il polso febbrile, la tua barba era nera, padre, e i tuoi capelli folti. Attribuisci un grande valore a questa vana e fatale giovinezza del corpo, a questa energia divoratrice del sangue che colora il volto e brucia il cranio? E cosa abbiamo di più prezioso? Rispose il giovane. Quale altra vera ricchezza abbiamo una volta nella vita? È l'età del pericolo e della sofferenza, disse il sacerdote. Felici coloro che l'hanno attraversata senza perire. Stenio fermò per un attimo lo sguardo sul volto pallido e affossato di Magnus, poi si rivolse a Trenor con un misto di tristezza e ironia. Perché mi hai portato qui? Perché hai messo davanti ai miei occhi questo spettro vivente e queste tombe verdi? È per dimostrarmi che la morte è più felice e fruttuosa della vita? È per darmi un assaggio della dolcezza del nulla? Pensi di aver scelto bene il luogo e il soggetto? Non sai che a quanto pare voglio più morire che vivere? Quanto a quest'uomo, forse non sai che l'ho incontrato sul Monte Rosa un giorno in cui era arrabbiato. Che coraggio vuoi che prenda alla vista di queste tombe, dove vorrei essere già addormentato? Quale fiducia speri di darmi nella parola di questo sacerdote che ho visto traviato dalle passioni? Volevo mostrarti, Stenio, rispose il saggio Trenmore, che la vita può essere tranquilla come la morte. E che l'uomo può recuperare la ragione perduta e sottometterla alla sua volontà onnipotente. Volevo mostrarti la forza, le immense risorse divine che sono state messe in noi e i beni che sono alla nostra portata. Vedi che possiamo, senza disordine, senza fatica e senza eccessi, godere delle cose più belle della terra, la poesia, la scienza, le arti. Se ti fermi qui per un momento, vedrai che nel seno di questo ritiro le nature più potenti e scelte sono venute a riposare e a ritirarsi in attesa dei misteriosi destini della prossima vita. Vedrai che hanno trovato lì la lenta ma sicura guarigione delle loro ferite incancrenite, la vasta e magnifica estensione delle loro facoltà più preziose. Vedrai soprattutto, aggiunse il camaldolese, che Dio è misericordioso e che il suo amore è immenso, la sua pietà instancabile e la sua grazia onnipotente. Piangerai ai piedi dei santi altari e queste pie lacrime saranno un balsamo per le ferite del tuo cuore. Giorno dopo giorno sentirai gli effetti salutari di questa benefica prigionia. Le tue volontà ardenti si spezzeranno sotto il giogo, le volontà nobili riprenderanno il sopravvento, le gioie della rassegnazione e della gratitudine cancelleranno in te anche il ricordo degli errori deliranti e dei furori maledetti della giovinezza. Sei arrabbiato con la gioventù, fratello mio, disse Stenio, ma hai solo pochi anni più di me. Questa mattina hai aggiunto all'inno dell'angelo custode una strofa che non era nella liturgia e che tradisce più giovinezza nella tua immaginazione di quanta ce ne sia ora in tutto il mio essere. Il sacerdote impallidì, poi mise la sua mano gialla e callosa su quella pallida e bluastra di Stenio. Figlio mio, disse, anche tu sei stato infelice, visto che sei così crudele. Le sofferenze subite, disse Trenmore in tono severo e triste, dovrebbero rendere compassionevoli e buoni. Le anime deboli si corrompono con le avversità, le anime forti si purificano con esse. E io non lo so, disse Stenio, finalmente commosso e spogliandosi di tutta la sua ironia per prendere con una mano il braccio del prete e con l'altra quello di Trenmore. Non so che sono un'anima senza grandezza ed energia, una natura storpia e miserabile. Sarei dove sono se fossi Trenmore o Magnus. Ma ahimè, aggiunse, lasciando cadere le braccia e sedendosi di nuovo con un movimento di cupa rabbia sulla pietra del sepolcro. Perché tentare vani sforzi con me? Perché mi date consigli di cui non posso approfittare ed esempi che vanno oltre le mie forze? Che piacere trovate nel mostrarmi le vostre ricchezze, nel mostrarmi di quale potere siete dotati, di quali sforzi siete capaci? Uomini forti, uomini eroici. Vasi di scelta, santi che provengono da un galeotto e da un sacerdote? Tu, galeotto, che hai portato sul tuo capo tutte le pene della vita sociale, tu, monaco, che hai riassunto in pochi anni di vita interiore tutte le torture dell'anima, voi due, che avete sofferto tutto ciò che gli uomini possono soffrire, sazietà e privazioni, l'uno spezzato da colpi e l'altro da digiuni, eppure siete qui, in piedi, con la fronte alzata verso il cielo. Mentre io striscio come il figliol prodigo in mezzo agli animali immondi, cioè agli appetiti grossolani e ai vizi impuri. Ebbene, lasciatemi morire nel mio pantano e non venite a tormentare la mia agonia con lo spettacolo della vostra gloriosa ascensione al cielo. Così gli amici di Giobbe vennero a vantarsi della loro prosperità con la vittima che giaceva sull'etamaio. Lasciatemi. Lasciatemi! Custodisci bene i tuoi tesori, perché il tuo orgoglio non li consumi. Che la saggezza e l'umiltà veglino sulle tue conquiste. Preservati dal desiderio infantile di mostrarle a chi non ha nulla, perché nella sua rabbia il povero, odioso e geloso potrebbe sputare su queste ricchezze e macchiarle. Trenmore, la tua gloria potrebbe non essere così reale e luminosa come immagini. La mia amara ragione potrebbe forse trovare una spiegazione banale al trionfo della volontà sulle passioni smorzate, sui desideri effimeri o sazi. Magnus, attenzione! La tua fede potrebbe non essere così forte da non poterla scuotere con uno sguardo beffardo o un dubbio audace. La vittoria dello spirito sulle tentazioni della carne non è forse così completa da non potervi far arrossire e impallidire? Pronunciando il nome di una donna? Andate, andate a pregare, accendete l'incenso davanti all'altare della Vergine e chinate il capo sul selciato delle vostre chiese, andate a comporre trattati sulla mortificazione e sulla rassegnazione, ma lasciatemi godere gli ultimi giorni che mi restano. Dio, che non mi ha favorito con un organismo superiore come quello che avete voi, ha messo alla mia portata solo realtà comuni, solo piaceri volgari e voglio usarli fino in fondo. Non ho forse fatto anch'io un immenso passo avanti sulla via della ragione da quando ci siamo lasciati? Visto che non ho potuto raggiungere il cielo, non ho forse cominciato a camminare sulla terra senza malumori e senza disprezzo? Non ho accettato la vita come era destinato a me? E quando sentivo in me un ardore irrequieto e ribelle, ambizioni vaghe e fantasiose, desideri irrealizzabili, non facevo forse di tutto per spegnerli e domarli. Ho avuto un approccio diverso da voi, fratelli, tutto qui. Io mi sono calmato con l'abuso, mentre voi vi siete curati con il cilicio e l'astinenza. Per anime così grandi come le vostre, questi mezzi violenti e queste espiazioni austere erano necessari. L'uso di cose umane non sarebbe stato sufficiente a spezzare i vostri caratteri di ferro, a esaurire la vostra forza soprannaturale. Ma tutte queste cose erano a misura di stegno. Vi si è abbandonato senza arrossire, vi si è abbandonato senza ingratitudine, e ora, se il suo corpo è diventato troppo debole per i suoi appetiti, se la malattia si è impossessata di questo gracile figlio del piacere, è perché Dio non lo aveva destinato a vivere a lungo sulla terra. È perché non era adatto a essere un soldato, un sacerdote, un giocatore d'azzardo, uno scienziato o un poeta. Ci sono piante che sono riservate a morire subito dopo la fioritura. Uomini che Dio non condanna a un lungo esilio tra gli altri uomini. Vedi, padre, sei calvo come me. Le tue mani sono avvizzite, il tuo petto si è ristretto, le tue ginocchia sono deboli, il tuo respiro è corto, la tua barba è ingrigita e non hai ancora 30 anni. La tua agonia sarà forse un po' più lenta della mia, forse mi sopravvivrai di un anno intero, ebbene, non siamo riusciti entrambi a vincere le nostre passioni, a raffreddare i nostri sensi. Siamo usciti dal crogiuolo purificati e ridotti? Non è vero, padre? Io sono ancora meno di te. È perché la prova è stata più forte e sicura, perché ho raggiunto la meta, perché ho finito di sconfiggere il nemico. Forse avresti fatto bene a prendere i miei stessi mezzi. Erano i più brevi. Ma non importa, non arriverai meno alla sofferenza e alla morte. Uniamo le mani, siamo fratelli. Tu eri grande, io ero misero. Tu eri una natura vigorosa, io ero povero e gracile. Ma le tombe, che presto si apriranno per noi, erediteranno non meno entrambi un po' di polvere.